Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ripeto, questo non mi riguarda. Non mi riguarda. Lei mi sta chiedendo un commento su un giudizio espresso esternamente al governo. Quindi questo governo produrrà una legge di bilancio in coerenza con quello che è stato fatto, per la semplice ragione che, a mio avviso, quello che è stato fatto va nella direzione giusta in termini di più crescita e meno debito. Insomma, un po' stizzito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, avete sentito, ha risposto il ministro dell'economia Padoan da Bruxelles ai giornalisti che lo incalzavano chiedendo: ma cosa ne pensa della proposta di ieri di Renzi sul deficit, sul fare a meno del fiscal compact, eccetera. Lui a un certo punto ha detto, anche Madonna Santa, che non c'era in questo audio, e poi, come avete sentito, ha detto: ripeto, questo non mi riguarda, lei mi sta chiedendo un commento su un giudizio espresso esternamente al governo. Quindi ha preso le distanze il nuovo Padoan, dice: Renzi è esterno governo, quindi noi agiremo come riteniamo opportuno. Ci occuperemo di molte cose, come sempre, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, anche questa sera. Intanto, purtroppo, gli incendi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ma soprattutto stanno colpendo il sud, in particolare il Vesuvio, che sembrerebbe in piena eruzione, invece c'è un incendio che si estende per oltre 2 chilometri e che non dà tregua, insomma, e la Protezione Civile sta facendo veramente interventi da record negli ultimi tempi. Poi ci occuperò, tra l'altro, anche la California sta andando a fuoco in modo molto, molto serio. Poi torneremo sulle polemiche sul caso di Rina, dottor Rina, il boss dei boss. Ci sono i medici di Parma, dove è detenuto, che hanno fatto una relazione sul suo stato di salute dicendo che potrebbe morire da un momento all'altro per la sua cardiopatia, ma i giudici del Tribunale di Milano, perché tra i vari processi è coinvolto anche in un processo a Milano, hanno detto però è capace di intendere, di volere, quindi rimane in giudizio. Poi in Iraq continua ad arrivare notizie che è stato ucciso al-Baghdadi, il capo dell'ISIS. Sarà vero o non sarà vero? Ci collegheremo con un inviato proprio in Iraq. Intanto, tra poco vi racconto in sintesi la giornata e vi ricordo che potete intervenire con i vostri commenti sui fatti principali della giornata qui a Effetto Notte con la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure col numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Tensione Renzi, Unione Europea sui conti pubblici, è un film già visto, vinceremo la partita, commenta il segretario del PD, ma il ministro Padoan lo frena e dice: faremo una legge di bilancio coerente con quanto fatto. Vaccini, il Senato respinge le pregiudiziali sul decreto legge, battaglia sulla fiducia e la Lega raccoglie le firme per il voto segreto sul provvedimento. Migranti, Frontex apre la revisione delle operazioni di Triton dopo l'incontro con la delegazione italiana e l'Italia chiede che gli sbarchi avvengano anche in altri porti europei. Russiagate, si fa pesante il coinvolgimento del figlio di Trump, festeggiava via mail la promessa di notizie compromettenti su Hillary Clinton da Mosca. Iraq, nuove voci sulla morte del capo dell'ISIS al-Baghdadi, Amnesty denuncia a Mosul Ovest una catastrofe per i civili. Incendi, roghi soprattutto al sud, il Vesuvio brucia senza tregua, mai così tanti interventi della Protezione Civile da 10 anni a questa parte. Il furgone che ha travolto la moto in Val di Susa, le perizie e un video inchiodano l'investitore dei fidanzati. La procura chiede quindi di modificare in omicidio volontario il capo di imputazione. Allarme per dei medici per Rina, per la sua cardiopatia rischia la morte improvvisa, ma per il tribunale può stare in giudizio e vigile e lucido. Il crollo della palazzina Torre Annunziata, sono una decina gli avvisi di garanzia, indagati i proprietari degli appartamenti non crollati. Calcio, Donnarumma firma col Milan fino al 2021 e per le Olimpiadi, quelle del 2024 e del 2028 saranno assegnate a Parigi e a Los Angeles. Partiamo quindi dalla tensione tra Renzi e l'Unione Europea sui conti pubblici. Renzi rilancia sul fiscal compact, mentre è arrivata da Bruxelles, come avete sentito, la nuova replica del ministro Padoan. Questo governo produrrà una legge di bilancio in coerenza con quello che è stato fatto, per la semplice ragione che, a mio avviso, quello che è stato fatto va nella direzione giusta in termini di più crescita e meno debito. Stretto tra l'incudine di un Renzi all'assalto della diligenza del fiscal compact e il martello di un'Europa che non sembra esattamente orientata a permetterlo, il ministro dell'economia Padoan risponde così a chi gli chiede se le proposte del segretario PD influenzeranno la prossima legge di stabilità. Padoan ha parlato al termine dell'Ecofin a Bruxelles, che ha dato dato il via libera alla strategia per affrontare il problema dei crediti deteriorati. Tra le azioni proposte, un rafforzamento della sorveglianza bancaria, lo sviluppo di un mercato secondario per i crediti inesigibili e nuove misure per facilitare la ristrutturazione del settore bancario. Padoan ha spostato l'attenzione su un altro braccio di ferro in corso con Bruxelles, quello sull'aggiustamento strutturale dei conti allo 0,3%, così come chiesto da Roma, inferiore a quanto chiesto dall'Europa. Questo per poter far combaciare la necessità di consolidamento con quella di alimentare la crescita. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, da parte sua, ha replicato che una risposta sarà inviata a Roma nei prossimi giorni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le anticipazioni del nuovo libro Avanti si susseguono e Matteo Renzi non demorde sul Fiscal Compact, un film già visto, confessa il segretario PD. 3 anni fa, quando abbiamo fatto la battaglia per la flessibilità, l'Europa diceva non esiste, e invece nel giro di 6 mesi ce la siamo presa, 20 miliardi. Ma non c'è solo la questione tecnica, piuttosto anche quella politica. Il segretario PD rivela che un accordo tra Silvio Berlusconi e Massimo D'Alema sul successore di Giorgio Napolitano avrebbe causato a inizio del 2015 la fine del patto del Nazareno. A rivelarlo lo stesso Berlusconi a Renzi, ma D'Alema smentisce e parla di ipotesi fantasiosa. E da sinistra critico anche Pierluigi Bersani, che ritiene balzana l'idea di Renzi di abbassare le tasse e propone un manifesto per il centro-sinistra, non un listone. Beppe Grillo invece attacca sulla fiducia al decreto sulle banche venete, la definisce fascista per salvare i banchieri, mentre 10 milioni di italiani sono a rischio povertà. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora il tema dei vaccini, sui quali continua la polemica politica. Ridotte le vaccinazioni obbligatorie, dimezzate le sanzioni per le famiglie inadempienti, introdotta un'anagrafe vaccinale nazionale, prevista poi la possibilità di vaccinarsi in farmacia, introdotto l'obbligo anche per gli operatori sanitari, punto sul quale però atteso il via libera della Commissione Bilancio. Queste le principali novità del decreto vaccini approdato oggi nell'aula del Senato dopo il via libera notturno da parte della Commissione Sanità. Il governo, che vuole chiudere la partita in tempi rapidi, ha autorizzato a porre la questione di fiducia su il decreto, che va convertito in legge entro il 6 agosto. Dopo il voto in Senato è comunque necessario un altro passaggio a Montecitorio, un iter parlamentare che continua ad essere accompagnato da polemiche dentro e fuori dell'aula. Le opposizioni protestano contro l'eventuale ricorso alla fiducia. Sarebbe un insulto al paese, un calcio in faccia a chi vuole discutere di questi problemi, ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Paolo Romani, mentre la Lega sta già raccogliendo le firme per chiedere il voto segreto su alcune parti del provvedimento. Intanto l'aula ha comunque respinto le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Fuori da Palazzo Madama invece si sono dati appuntamento centinaia di famiglie Novax. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il tema dei migranti è una notizia arrivata poco fa nella riunione che si è svolta oggi nella sede di Frontex a Varsavia, l'Agenzia Europea per la monitoraggio dei mari e delle coste. La delegazione italiana ha chiesto che in caso di massiccio afflusso di migranti sia possibile sbarcarli nei porti degli altri stati membri dell'Europa, dell'Unione Europea. Sarà costituito un gruppo di lavoro, informa Frontex, per stabilire cosa deve essere rivisto nella missione Triton, di cui si è parlato molto in questi giorni, alla luce delle decisioni già raggiunte a livello politico. E siamo sul Russiagate, per il quale è sotto accusa il figlio di Trump. Una email ha aggravato lo scandalo del Russiagate per la famiglia Trump. Il 3 giugno del 2016 un ex partner d'affari dell'attuale presidente aveva scritto al figlio di Donald Trump Jr., d'essere stato contattato da esponenti senior del governo russo che offrivano informazioni compromettenti sulla rivale Hillary Clinton. I love it, fantastico, aveva rapidamente risposto Donald Jr. E da qui nacque il fatidico incontro alla Trump Tower 4 giorni dopo tra il primogenito di Donald Trump, il genero Jared Kushner, l'allora manager della campagna elettorale Paul Manafort, e un avvocato che rappresentava Mosca, Natalia Veselnitskaya. Quelle meeting e lo scambio di informazioni avvenute sono oggi al centro dello scandalo e delle indagini. I rappresentanti di Trump, compreso Donald Jr., minimizzano pur ammettendo lo scambio di mail riportato dal New York Times. Ma una cosa è certa, il Russiagate continua a riservare sorprese e a perseguitare la Casa Bianca. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Restiamo all'estero con l'Iraq, nuove voci sulla morte del capo dell'ISIS al Baghdadi. Amnesty International denuncia dicendo che a Mosul Ovest è una catastrofe per i civili. Poi, come dicevo all'inizio, ci collegheremo direttamente con un inviato in Iraq. In Italia adesso per parlare dei tanti incendi che hanno colpito in particolare il sud con il Vesuvio che brucia senza sosta, e tra poco dovremmo collegarci proprio con la Protezione Civile che da giugno fino adesso ha fatto interventi record, tanti che non si facevano da 10 anni a questa parte. E il maltempo ha provocato una violenta tromba d'aria che ha colpito nel pomeriggio la Bassa Parmense. Sono stati scoperchiati con gravi danni i tetti di diverse abitazioni ma anche di aziende agricole e capannoni industriali. Il paese più colpito nella Bassa Parmense è Castel Aicardi di San Secondo, dove si registrano anche 2 feriti e un uomo colpito da malore. E parliamo adesso del furgone che ha travolto la moto in Val di Susa. Da omicidio stradale a omicidio volontario. La Procura di Torino chiede di modificare il capo di imputazione a carico di Maurizio De Giulio, l'uomo che ha travolto con il suo van la moto con a bordo la coppia di ragazzi in Val Susa domenica scorsa, provocando la morte di Elisa Ferrero e il ferimento grave di Matteo Penna. La decisione degli inquirenti, come chiarisce una nota del procuratore capo di Torino Armando Spataro, matura a seguito delle testimonianze raccolte e delle perizie chieste dalla Procura. In particolare, una consulenza tecnica disposta con urgenza dal PM conferma attraverso l'analisi dell'impianto ABS in dotazione all'autocarro l'assenza di frenata da parte del veicolo investitore. De Giulio, risultato positivo all'alcol test, avrebbe dunque rincorso e colpito la moto in maniera volontaria dopo un litigio qualche chilometro prima per una mancata precedenza. Ora toccherà al giudice per le indagini preliminari decidere quali ipotesi di reato perseguire. Le condizioni di Matteo Penna restano stabili ma gravi, con prognosi riservata, mentre chiede silenzio e rispetto della privacy il padre di Elisa Ferrero, e rispetto per il dolore della famiglia chiede anche la procura. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E ci sono novità sul crollo della palazzina a Torre Annunziata vicino Napoli. Sono una decina le persone iscritte a vario titolo nel registro degli indagati della procura nell'inchiesta appunto del crollo, nel quale venerdì scorso hanno perso la vita 8 persone. Il fascicolo aperto subito dopo il cedimento strutturale a carico di ignoti è per crollo colposo e omicidio plurimo colposo. A essere raggiunti dall'informazione di garanzia sono in particolare tutti i proprietari degli immobili non crollati. E c'è poi questa sentenza della Cassazione: quale cognome attribuire a un figlio riconosciuto solo anni dopo la nascita, visto che la legge concede ampia discrezionalità e che la scelta deve essere compiuta nell'interesse del minore, è meglio che sia lui stesso il minore a decidere. Quanto è successo in un caso al vaglio della Corte d'Appello di Firenze, confermato oggi dalla Cassazione, che ha respinto il ricorso di un uomo che avrebbe voluto dare al figlio nato fuori dal matrimonio il suo cognome. Si va quindi verso l'orientamento degli ultimi anni, che ha fatto quindi tramontare questa sentenza la prassi che i figli crescano nel nome del padre. La decisione adesso dell'UNESCO, si tratta di una piccola isola giapponese, Okinoshima, che diventa patrimonio dell'UNESCO, entra cioè a far parte quest'isola del patrimonio mondiale. Peccato che sempre quest'isola sia completamente vietata alle donne, quindi più che patrimonio mondiale, patrimonio solo per metà del mondo, una scelta particolare dell'UNESCO. E poi per chiudere lo sport con il calcio, al termine di un ultimo vertice durato quasi 3 ore, Gianluigi Donnarumma ha firmato il prolungamento del contratto che lo lega al Milan fino al 2021, con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. E davanti a papà Alfonso è diventato ufficialmente un giocatore del Milan anche il fratello Antonio Donnarumma. C'è una notizia anche per chiudere che riguarda le Olimpiadi. Quelle del 2024 e del 2028 saranno assegnate a Parigi e Los Angeles in un'unica sessione, e probabilmente con questo ordine lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale. La ratifica avverrà nel congresso di Lima in Perù del prossimo 13 settembre. E direi con questa notizia che il quadro è piuttosto completo della giornata dei fatti principali dall'Italia e dall'estero. Voi proseguite con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure su numero per messaggi e WhatsApp al 349 238 6666. Walter che dice: Padoan, Renzi, l'Unione Europea, l'Italietta distratta in vacanza, poi vedremo in autunno le sorprese. Noi ci vediamo, ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie in 60 minuti, una trasmissione piena di fatti principali dall'Italia e dall'estero fino alle 22 e alle 21. Ricordate che tra l'altro questa è l'ultima settimana della stagione di Effetto Notte. Roberta Giordano sempre con voi. Adesso cominciamo ad approfondire i vari temi. Intanto i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 per gli sms e i WhatsApp. A proposito della notizia dell'isola giapponese patrimonio dell'UNESCO, è diventata ed è vietata alle donne, Maurizio scrive: c'è ancora molto da fare per assicurare alle donne l'uguaglianza alla quale hanno diritto sotto le scuse delle tradizioni e le culture millenarie, mette tra virgolette, in troppi giustificano ancora la discriminazione. Quanto tempo ci vorrà? E poi Nadia scrive: hanno paura, la sottomissione è annientamento, esclusione e paura dell'altro. Giovanna scrive: ritengo questo divieto semplicemente ridicolo. Simone scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: bisognerebbe discutere di questi dirigenti dell'UNESCO e dei loro finanziatori. Adesso invece discutiamo di altri argomenti, discuteremo tra pochissimo degli incendi che stanno colpendo vaste aree dell'Italia, soprattutto al sud, ma prima di tutto vi ricordo quali sono i fatti principali della giornata. Renzi che sfida ancora l'Unione Europea, dice: un film già visto ma vinceremo la partita, questo a proposito di conti pubblici, mentre il ministro Padoan a un certo punto a Bruxelles sbotta e dice: faremo la legge di bilancio coerente con la nostra politica. E poi per i migranti, una notizia che vi dicevo è arrivata in serata, l'Italia chiede che gli sbarchi vengano fatti anche in altri porti europei e Frontex, in questa riunione che c'è stata a Varsavia, apre a delle revisioni sull'operazione Triton. Fiducia sul decreto legge Banche Venete, protesta del Movimento 5 Stelle con Salvadanai in Parlamento. Nuova tegola per Trump per quanto riguarda gli Stati Uniti, le relazioni pericolose di Donald Junior, del figlio, con una legale russa che proponeva delle notizie dannose su Hillary Clinton, e qui siamo sempre sul Russiagate. Poi per l'Italia gli incendi con tante richieste di intervento aereo oggi, ne parleremo tra breve. E per quanto riguarda il furgone che ha travolto la moto in Val di Susa, perizie e video inchiodano l'investitore dei fidanzati. La procura chiede l'omicidio volontario, non più quello stradale. A proposito di ISIS in Iraq, nuove voci sulla morte del così sedicente califfo al-Baghdadi, mentre Amnesty International denuncia che nella città di Mosul è in atto una catastrofe per i civili. Allarme dei medici per Totorina, rischia la morte improvvisa, ma per il Tribunale di Milano può stare in giudizio perché è vigile e lucido. Quindi, come vi dicevo, è purtroppo stagione di roghi in Italia, spesso l'estate. Anche oggi sono in azione i Canadair, gli aerei della flotta dello Stato coordinati dalla Protezione Civile, nell'operazione di spegnimento di molti incendi boschivi che da giorni stanno interessando gran parte del nostro paese. Sono state le richieste di intervento aereo, almeno una quarantina. In Sicilia pare che sia sotto controllo l'incendio di ieri vicino ad Enna, è stata interrotta la linea ferroviaria Catania-Palermo. A Messina la situazione sta migliorando, ma si stimano comunque danni per centinaia di migliaia di euro. Anche in Puglia, sul Gargano, sono andati a fuoco boschi e macchie mediterranee. E poi c'è il Vesuvio a Napoli, che sembra in eruzione, in realtà c'è un grande incendio che si estende per circa 2 chilometri e brucia senza tregua da una settimana. Ne parleremo tra pochissimo del Vesuvio, anche perché sembra che ci possa essere dietro un disegno criminale, così hanno detto alcuni. Ma innanzitutto vorrei coinvolgere Luigi D'Angelo, che è direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione Civile. Buonasera, ingegnere. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Grazie della disponibilità intanto. Allora, vedevo che dal 15 giugno a oggi siete intervenuti praticamente in 430 emergenze, che è un record di interventi da 10 anni a questa parte. Beh sì, è un anno complesso, complicato dal punto di vista diciamo degli incendi, e risaliamo per avere dei confronti in termini numerici agli anni 2012 o 2007, che si sono verificati più o meno numeri similari, comparabili, chiaramente in modalità diverse. Il 2007 fu molto concentrato in poche settimane, il 2012 più esteso durante la stagione estiva. Ora chiaramente per quello che ci riguarda l'attenzione è massima e le previsioni sono chiaramente sempre di breve periodo, quindi sappiamo anche quali saranno le attività per domani in termini anche di massima allerta. Per quello che riguarda la giornata di domani, e poi vedremo quello che accadrà. In particolare il sud, no, dicevo, è colpito così pesantemente. Sì, esattamente, lei ha citato esattamente quelle che sono le situazioni più critiche. In particolare abbiamo, per quello che riguarda la Sicilia, nelle province di Palermo e in Messina, la Calabria, in particolare nel Reggino, nella provincia di Cosenza, anche la Basilicata in provincia di Potenza, la Puglia, e poi citava appunto lei anche la Campania, in particolare nei comuni del Vesuviano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Ercolano. Quest'oggi a Torre del Greco ci sono state delle evacuazioni preventive, circa una novantina di persone evacuate preventivamente, soprattutto per quello che riguarda il fumo molto denso che ha interessato quelle zone. Quanto alle cause, ingegnere D'Angelo, molti dicono che è la stagione secca, la mancanza di piogge, però in realtà possiamo dire che l'uomo è sempre il primo colpevole degli incendi, o per volontà o per incuria. Purtroppo le statistiche ci dicono che l'autoinnesco ha una bassissima probabilità di verificarsi, quindi sia per dolo o alcune volte per colpa, purtroppo molti degli incendi sono causati dalla mano dell'uomo, dall'incuria a volte. Chiaramente ci sono delle condizioni a contorno predisponenti importanti, la temperatura, il vento, ma anche le condizioni particolarmente siccitose, che quindi determinano una massa vegetativa molto secca e che quindi dà anche combustibile alla propagazione e poi all'innesco degli incendi. E questo sicuramente sono dei fattori da considerare. Per chiudere, ingegnere D'Angelo, dal punto di vista delle misure preventive, oppure da indicazioni, consigli da dare alle persone, no? Se dovessero vedere un incendio, oppure comportamenti che a volte anche involontariamente possono provocare l'incendio. Sì, chiaramente, guardi, norme di buon senso, nella consapevolezza che in questo periodo nei boschi, nelle campagne, c'è molta massa vegetativa secca che è facilmente infiammabile, quindi il semplice classico mozzicone di sigaretta, la marmitta calda parcheggiata su della macchina parcheggiata su un terreno appunto molto secco. Queste sono delle piccole accortezze di buon senso che occorre sempre tenere. Poi chiaramente nel momento in cui si avvista un incendio è importante segnalarlo e non pensare che qualcuno l'abbia già fatto, quindi chiamare 1515, il 115, per segnalare quanto prima e consentire appunto repentinamente l'arrivo delle squadre intanto da terra che contrastano gli incendi. Grazie ingegnere Luigi D'Angelo, e grazie per il vostro lavoro. Ricordo, grazie, direttore operativo, buonasera, della Protezione Civile. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Parlavamo quindi del Vesuvio a Napoli, che sta bruciando ininterrottamente da giorni, con queste fiamme che si estendono per oltre 2 chilometri. C'è per noi a Napoli Laura Vigiano, che saluto. Ciao cara Laura. Ciao Roberta, buonasera. Senti, sono state, mi sembra, evacuate famiglie dalle case, anche ristoranti, e qualcuno, come anche riconosceva l'ingegner D'Angelo, insomma, dice l'autocombustione è quasi inesistente. C'è addirittura, qualcuno parla, per quanto riguarda il Vesuvio, di un disegno criminale dietro? Sì, no, vabbè, cioè, in tanti parlano insomma di un disegno criminale, lo fanno i cittadini esasperati, lo fanno parroci della zona, lo fa Federalberghi, secondo cui esiste una strategia criminale che arma le mani dei piromani, case evacuate, dicevamo, intere zone in pericolo, anche tra Ercolano e Torre del Greco. Le fiamme si sono avvicinate anche all'ex discarica Cavasari, dove si estrae biogas, e il tragico e sconfortante bollettino di ogni estate, purtroppo, che mette a rischio anche l'economia legata al turismo, certo, in una regione che solamente oggi ha dovuto far fronte ad un centinaio di incendi, impegnando circa 600 uomini, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, insomma sono all'opera da ore con diversi mezzi, diversi Canadair giunti anche da fuori regione per tenere tutto sotto controllo. Insomma, la situazione più preoccupante è quella del Vesuvio, che appunto, come dicevi tu, il Vesuvio brucia, la situazione è una situazione di emergenza. In prefettura a Napoli è stata attivata un'unità di crisi per gli incendi divampati in diversi punti e che appunto, come dicevi, come ricordavi da studio, vengono appiccati da diversi giorni. Oggi si è creata una situazione preoccupante perché 2 incendi che hanno avuto origine nei comuni di Ottaviano ed Ercolano si sono uniti formando una barriera di fuoco di circa 2 chilometri, difficile da abbattere anche perché il vento ne ha favorito il cammino e l'aggressività. La vetta del Vesuvio è apparsa ricoperta da un fumo grigio denso che si estendeva anche lungo il profilo del pendio, insomma visibile a distanza da tutto quanto il Golfo di Napoli. Qualcuno ha anche, diciamo, guardandolo, insomma, ha detto sembra quasi un'eruzione, perché appunto l'immagine era un po' tipo quella della foto dell'eruzione del vulcano, insomma, per la colpa di fumo che si era creata sopra la vetta, insomma, che la nascondeva completamente. Laura, quando si parla di disegno criminale, si dice anche con quale obiettivo specifico? Per costruire, per ma ci sono Pascoli, vari, generalmente insomma, quando si parla di questo si sottintende, insomma, sia appunto l'intenzione di poter costruire in parti del territorio che vengono quindi insomma bruciate, dove la macchia praticamente di verde viene completamente distrutta, e sia poi c'è un'esigenza anche di diciamo un nuovo lavoro per chi invece può utilizzare il territorio che è andato in fiamme, insomma, per ripristinarlo. E quindi dare lavoro, insomma, a chi può intervenire in queste situazioni. Spesso si è detto questo, quindi insomma ci possiamo anche credere. Ogni anno succede la stessa cosa, ed è veramente complicato immaginare che tutti gli incendi, insomma, divampino solo per combustione, per autocombustione, certo, perché c'è un caldo eccessivo, anche perché quando hai una situazione come quella che si è vista oggi sul Vesuvio, cioè diversi punti in cui inizia a prendere spazio, insomma, e a sporare il territorio il fuoco, è evidente che qualcosa di tutto c'è, non è possibile che avvenga tutto quanto così, in modo casuale. Chiarissimo, purtroppo. Grazie Laura Viggiano da Napoli. Ciao Laura. Grazie a te, ciao, buona serata. Adesso direi di prenderci questa pausa di ricreazione, come sempre. A questo punto voi continuate a scrivere i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o il 349-238-6666. Giuseppe chiede, per esempio, la legge che impedisce costruzione su terreni incendiati, che fine ha fatto? È in effetti interessante come domanda. E poi c'è sempre sulla questione dell'isola giapponese decretata come patrimonio mondiale dall'UNESCO, però vietata alle donne, quindi per metà mondo. Dice Claudio, espressione di giustizia, vuole e pretende che esistano anche luoghi vietati agli uomini. Questo lo scrive un uomo, che è Claudio. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete tra l'altro aderire senza indugio. Ci sentiamo un momento. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto e anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora con i temi e con gli ospiti per approfondire i vari argomenti. Abbiamo parlato ampiamente di incendi che purtroppo stanno colpendo gran parte del sud Italia, la Puglia, la Sicilia, la Campania. Vedevo adesso che il sindaco di Bellona, vicino Caserta, Filippo Abbate, dopo aver appreso dell'incendio alla discarica Il Side, ha emesso una ordinanza con la quale ha invitato la cittadinanza, specie quella residente nei pressi dell'impianto, ad adottare ogni misura precauzionale necessaria e opportuna allo scopo di prevenire eventuali danni, quindi di chiudersi in casa e tenere chiuse le finestre, le porte. E tra l'altro, quando si diceva prima che c'è un disegno criminale, si vocifera dietro per esempio l'incendio del Vesuvio, non è soltanto per costruire o per creare lavoro per chi poi può partecipare, diciamo, alla rimessa in sesto del territorio, ma anche si parla di rifiuti tossici che vengono bruciati in quel modo perché i fumi sono particolarmente neri, quindi insomma di male in peggio. Adesso vi ricordo, prima di passare al prossimo tema, qual è intanto la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, il 349-238-6666, sempre per i vostri messaggi. Anzi, ne leggo ancora due. Dice qualcuno che non si firma, mettete almeno un nome d'arte, dico in genere, rettificate subito, dice, fuori dal Senato ci sono centinaia di famiglie contro l'obbligo vaccinale, non contro i vaccini, non strumentalizzati i fatti, giornalismo ha servito, dice, a proposito di un servizio che è andato nella prima parte di Effetto Notte. Se lo dice, ci saranno appunto le famiglie fuori a protestare contro l'obbligo vaccinale e non contro i vaccini, diciamo così, evidentemente non sono contro i vaccini ma contro l'obbligo, molti la spiegano così. Adesso per questo proposito vedo che sempre sui vaccini è uscita in questo momento un'agenzia, parla Romani di Forza Italia, abbiamo avuto assicurazione dalla maggioranza che non metteranno la fiducia sul decreto vaccini, lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Paolo Romani al termine della riunione di gruppo dedicata al decreto vaccini che sapete è in discussione al Senato. Benissimo, poi Alessandro, tassista di Milano, a proposito del furgone che in Val di Susa ha travolto la moto uccidendo la ragazza che era su questa moto e il ragazzo in gravissime condizioni, sapete che la procura chiede adesso l'imputazione di omicidio volontario, dice questo tassista, lavoro in mezzo al traffico tutto il giorno, oggi per far scendere una cliente in via Brera a Milano, dice, tempo totale 30 secondi, mi sono preso una clacsonata di 25 secondi, quindi solo 5 secondi in meno di quanto è stato, ascoltatemi, evitate il mondo, è pieno di idioti violenti, pensate ai vostri figli, vabbè, come si fa a evitare il mondo. Adesso vi ricordo velocemente i titoli, che sono la tensione che continua tra Renzi e l'Unione Europea sui conti pubblici. Renzi dice un fin già visto, vinceremo la partita, commenta Renzi. Ma il ministro Padoan lo frena e dice faremo una legge di bilancio coerente con quanto fatto. I vaccini, ne stavamo parlando, il Senato respinge le pregiudiziali sul decreto legge, battaglia sulla fiducia che però sembrerebbe risolta e la Lega raccoglie le firme per il voto segreto sul provvedimento. I migranti, Frontex che apre alla revisione delle operazioni di Triton dopo l'incontro con la delegazione italiana e l'Italia chiede che gli sbarchi avvengano anche in altri porti europei. Russiagate, si fa pesante il coinvolgimento del figlio di Trump, festeggiava via mail la promessa di notizie compromettenti da Mosca su Hillary Clinton. Dell'Iraq parleremo tra pochissimo, degli incendi abbiamo appena parlato con Roghi, soprattutto al sud il Vesuvio che brucia senza tregua e la protezione civile che ha fatto tanti interventi che non si facevano da 10 anni. Il furgone che ha travolto la moto in Val di Susa, l'abbiamo detto, le perizie e un video inchiodano l'investitore dei fidanzati, la procura chiede omicidio volontario. E poi per il calcio, Donnarumma firma col Milan fino al 2021. E adesso occupiamoci della situazione in Iraq, che ormai lo sapete è un paese devastato dalla guerra, o meglio dalle guerre ormai da tempo immemore, prima dall'attacco della coalizione occidentale a guida americana che l'invase, no? Anni addietro, per le presunte fantomatiche, è il caso di dire, lo sappiamo ormai da tempo che erano fantomatiche armi di distruzione di massa di Saddam, e poi la devastazione, quella sì, la vera distruzione in cui è piombato l'Iraq dopo quell'invasione che è stata l'humus per il crearsi di scorribande terroristiche di vario tipo, sino all'ISIS che ha fatto di Mosul, la città irachena, la propria roccaforte. E da parte delle forze irachene, con l'aiuto di una coalizione occidentale, è stato in questi giorni sferrato l'attacco, diciamo così, finale a Mosul per liberarlo dal sedicente califfato, dall'ISIS. C'è la TV irachena Al-Sumaria che ha ribadito più volte in questi giorni, anche oggi, che fra l'altro a Mosul, nell'attacco a Mosul, sarebbe stato ucciso il capo dell'ISIS, al-Baghdadi. La stessa emittente però l'aveva detto più volte in passato ed era stata smentita. Adesso chiediamo dettagli all'inviato del Corriere della Sera in Iraq, Lorenzo Cremonesi, che è anche autore del libro Da Caporetto a Baghdad. Ciao Lorenzo, so che sei in viaggio in Iraq. Sì, sono qui in Iraq. Dunque, visto che parliamo di tempo immemore, è giusto sottolineare la guerra del 2003, ma l'Iraq del 2003 è già un paese piegato, c'era stata la guerra con l'Iran, l'embargo, l'invasione del Kuwait e gli attacchi americani, quindi è un paese che è 40 anni che è piegato dalla guerra. Io mi ricordo che nel 2003, quando venimmo per la guerra americana, era già un paese disastrato, i curdi erano stati bombardati, erano stati vessati, c'era stato già la guerra di Saddam contro gli sciiti. Comunque, per tornare a Baghdadi, il capo dell'ISIS, cosa ti risulta? Va tutta verificata. Come hai già ricordato, sono almeno 8-9 volte dal 2014, addirittura già nello stesso 2014, che specialmente i media iracheni, ma non solo loro, riportavano della morte o del ferimento molto grave di Baghdadi, addirittura della sua sostituzione, addirittura già allora si parlava di un nuovo califo, eccetera, eccetera. Sembra quindi più un auspicio oggi che una notizia fondata, Lorenzo. Infatti, come vedete, per il momento la notizia è ripresa solo dai media iracheni e rilanciata dai media iracheni, i grandi media internazionali, dalla BBC alla Reuters, alla Associated Press, sono estremamente cauti. Io direi che l'unica considerazione che si può fare, senza avere una vera conoscenza dei fatti, perché nessuno ce li ha, è che oggi è molto probabile che Baghdadi sia stato ucciso, sia eliminato, sia comunque fuori gioco. Già i russi 3 settimane fa, mi sembra fosse la fine di maggio, avevano detto che Baghdadi era morto in un loro raid contro un villaggetto vicino a Mosul, tra Mosul e la Siria. Peraltro io ero in Siria fino a 3 giorni fa, nella zona di Iraq, ho chiesto questa stessa domanda allo YPG, cioè ai militari curdi siriani che in questo momento sono sulla linea del fronte contro l'ISIS nella Siria dell'est e settentrionale, e loro che sono in contatto diretto con gli americani, perché lavorano davvero spalla a spalla molto più che non gli iracheni, sostenevano di no, che secondo loro avevano verificato quel raid, avevano verificato i morti di quel bombardamento, e alcuni nomi erano già usciti, quindi c'era una parte di verità, ma secondo loro non c'era Baghdadi. Questo non vuol dire che Baghdadi non sia morto in un altro contesto, no, oppure non sia ferito molto grave. L'ultima volta, questo se posso essere un attimo preciso, l'ultima volta che abbiamo una testimonianza credibile, cioè che lui fosse ancora vivo e stesse ancora agendo, fosse ancora operativo, è stato agli inizi dell'attacco della grande offensiva irachena e curda contro Mosul il 17 ottobre, quando ci fu un suo comunicato con la sua voce in cui diceva bisogna mobilitarsi, bisogna combattere, e aizzava i suoi uomini alla resistenza a Mosul. Lorenzo, allora non abbiamo nulla. Comunque appunto Lorenzo Cremonesi, va detto che anche fosse morto, certo lui era il leader carismatico, ma morto uno se ne fa un altro purtroppo. Il fatto è effettivamente, come dicono le forze irachene, è stata liberata definitivamente Mosul, e fra l'altro, Lorenzo, c'è Amnesty International, ma non solo, varie organizzazioni non governative che dicono che poi sì, la battaglia di Mosul ha liberato, no, dall'ISIS, ma poi sono i civili, c'è stata una catastrofe in questa battaglia per i civili che continua poi da anni, come dicevamo, no? Allora, Mosul è una città nella parte occidentale, nella parte dove c'è la città vecchia, dove ci stava la Moschea al-Nuri, che è devastata. Ecco, io ci oserei con una frase, e cioè il governo di al-Baghdadi, il governo iracheno ha preso Mosul e rischia di perdere l'Iraq. E la cosa qui è molto più complicata. Qui c'è stata guerra civile, cioè lo so che è una frase che lascia un attimino perplessi, ma l'ISIS è molto più che i terroristi che colpiscono in Europa, che hanno tagliato le gole ai giornalisti, agli stranieri occidentali e non solo, ai loro nemici in Siria e in Iraq, un branco di pazzi ideologizzati. L'ISIS è un movimento profondamente radicato in Siria e in Iraq, rappresenta i sunniti, è figlio, è conseguenza della repressione terrificante di cui noi abbiamo parlato, ahimè, troppo poco, noi tutti, perpetuata dai governi sciiti da dopo l'invasione americana del 2003 contro i sunniti, che sono stati vessati, torturati, perseguitati. Ci sono migliaia di desaparecido giovani sunniti della provincia di Al-Anbar, quindi Fallujah, Ramadi, Tikrit, le roccaforti storiche del sunnismo in Iraq, che sono spariti, di cui non si sa nulla, e ahimè la cosa sta adesso capitando anche a Mosul. E quindi che cosa vuol dire? Se il governo di al-Baghdadi, che come dire formalmente lancia gli appelli, mette i fiori ai posti di blocco, io vedevo l'altro giorno ero a Mosul Est, ci sono dei bei cartelloni dove si dice vogliamoci bene, siamo tutti uniti, tutto questo sono fandonie. Quello che sta avvenendo oggi per l'ennesima volta è la repressione con la protezione, con la copertura americana e non solo. Qui stiamo creando, e lo dico proprio per i cittadini di Mosul, ISIS era un movimento partigiano, All'interno della città abbiamo visto una resistenza di tipo partigiano, quindi con famiglie che davano l'acqua, che sostenevano i guerriglieri, eccetera, eccetera. E questo movimento partigiano, che bene o male rappresenta i sunniti in Iraq e in Siria, o trova una risposta politica, e quindi l'Iraq sciita e l'Iran, suo padrino, oltre alla Russia e tutto questo fronte che gli si muove attorno, riesce alla grande capacità, alla visione politica di rilegittimare, di inglobare al suo interno l'elemento sunnita, oppure noi tra un po' avremo, chiamatelo Al-Qaeda 3, chiamatelo ISIS 4, ci sarà un nuovo ISIS. Hai già risposto, Lorenzo, a una domanda che avevo in mente di farti: qual era il futuro da adesso in poi per l'Iraq, e purtroppo un po', diciamo, le ombre inquietanti le hai già evocate. Grazie intanto a Lorenzo Cremonesi, buon lavoro, buon viaggio. Lorenzo, stai attento. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Ciao Lorenzo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberto Giordano con voi. Proseguiamo allora con gli argomenti. Intanto vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Diversi altri messaggi sull'isola giapponese che l'UNESCO ha decretato essere patrimonio appunto mondiale, solo che è vietata alle donne nel modo più assoluto, quindi in realtà non è patrimonio di tutto il mondo, di metà del mondo. Vari messaggi su questo argomento, in parte l'ho già letti. Gianfranco dice: che cosa vuol dire che le donne in quell'isola non possono andarci? Io sicuramente non ci metterei piede, dice Gianfranco, ma lo spiega anche un altro ascoltatore, ma poi c'è la spiegazione medievale naturalmente delle donne che sono impure causa del ciclo mestruale, quindi non possono andare su quell'isola, le robe che anzi ancora antecedenti al Medioevo. E poi dice un ascoltatore, che Cristiano invece fa una battuta, dice un'esconcezza. Va bene, poi invece altri messaggi di chi dice: ma a quando l'omicidio colposo con arresto per incendio? In realtà l'omicidio colposo per gli incendi ci sono, è che purtroppo è difficilissimo nella maggior parte dei casi identificare gli autori di questi incendi, specie quando riguardano vaste aree boschive, insomma risalire chi è stato, e nella maggior parte dei casi restano impuniti. Adesso però, tra poco cambiamo argomento, vi ricordo i titoli principali della giornata che riguardano questa apertura di Frontex nell'incontro che ha avuto con la delegazione italiana a Varsavia sulla possibile revisione dell'operazione Triton. Poi Renzi, che continua a sfidare l'Unione Europea sul deficit, dice: un film è già visto ma vinceremo la partita. Il ministro Padoan che risponde un po' a muso duro, dice: faremo la legge di bilancio coerente con questo, con quanto abbiamo fatto sin qui. E poi la fiducia sul decreto legge Banche Venete, protesta del Movimento 5 Stelle con i Salvadanai in Parlamento. Nuova tegola per Trump, le relazioni pericolose di Donald Junior vengono fuori, i suoi rapporti con una legale russa che proponeva delle notizie dannose su Hillary Clinton. E siamo sempre a Russiagate, gli incendi, ne abbiamo parlato anche con la Protezione Civile. Tante richieste oggi da giugno, diciamo interventi record che non c'erano da 10 anni a questa parte, i roghi soprattutto nel sud Italia, anche il Vesuvio. Perizie e video inchiodano l'investitore dei fidanzati in Val di Susa, la procura chiede omicidio volontario e quindi non più stradale. E poi abbiamo appena parlato adesso con l'inviato del Corriere Lorenzo Cremonesi sulla possibilità che effettivamente in Iraq sia stato ucciso il capo dell'ISIS al-Baghdadi, e sulla situazione e il futuro davvero incerto e inquietante per questo paese ormai devastato. Mentre con Raffaella Calandra, che saluto, ciao Raffaella. Ciao Roberta. Parliamo, torniamo a parlare di Totò Riina. Vi ricordate che all'inizio del mese di giugno aveva scatenato polemiche la decisione della Cassazione, la sentenza della Cassazione, che accogliendo il ricorso del legale del pluriomicida capo dei capi di Cosa Nostra aveva accettato insomma un differimento della pena del boss gravemente malato oppure i domiciliari. La Cassazione aveva detto: il diritto a morire dignitosamente va assicurato ad ogni detenuto e quindi anche a Totò Riina. Ora c'è il Tribunale di Sorveglianza, da quella decisione della Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che dovrà decidere sulla richiesta del difensore del boss. Ora però, Raffaella, c'è una novità, cioè i medici dell'ospedale di Parma lanciano un nuovo allarme sulla salute di Rina, dicendo che la sua cardiopatia potrebbe causargli una morte improvvisa da un momento all'altro, no? Sì, allora la situazione è questa. L'ospedale di Parma, dove Totò Riina è ricoverato in regime di 41 bis. E quindi, scusami, Raffaella, se ti interrompo, non è dietro le sbarre, è comunque in un ospedale, anche se. Non nel senso classico, ecco. Non nel senso classico dietro le sbarre, però è comunque al 41 bis, cioè al carcere duro. Ecco, quindi questo. Quindi attenzionatissimo, sorvegliatissimo. Assolutamente, è il massimo della detenzione. Ha depositato una relazione su richiesta dei giudici di Milano, dove si celebra un processo per le minacce alla direttore del carcere di Opera, per capire quale fosse la condizione, diciamo, dell'imputato Totò Riina, per capire cioè se fosse in grado di continuare ad essere nel processo, quindi consapevole del processo che avviene a suo carico, perché erano stati i suoi difensori a chiedere appunto una sospensione del processo, ritenendo che lui non fosse più in carica, non fosse più in grado di intendere e di volere. Ebbene, i giudici, i medici dell'ospedale di Parma hanno una relazione con due facce. Da una parte dicono che Totò Riina è effettivamente a rischio della morte per la sua grave cardiopatia, che fa fatica a muoversi, fa fatica a parlare, che da un momento all'altro potrebbe anche morire. Ma dall'altra parte specificano anche che lui è lucido e che è vigile, che è collaborativo, e sulla base di questa relazione i giudici della sesta sezione penale di Milano hanno detto che quindi il processo non va sospeso, perché lui è perfettamente consapevole di quello che gli sta succedendo, cioè di un procedimento a suo carico, e quindi il procedimento va avanti. Una relazione che però, diciamo, sicuramente rispetto a quanto ricordavi tu, cioè alla pronuncia della Cassazione di un mese fa, viene vista da parte della difesa di Riina come un'ulteriore conferma della incompatibilità del detenuto rispetto al carcere, e il suo avvocato Luca Cianferone lo dice esplicitamente, aspettando questa nuova pronuncia della Tribunale di Sorveglianza di Bologna, attesa in qualsiasi momento, dopo appunto che la Cassazione aveva annullato con rinvio, per dire in gergo tecnico, cioè aveva detto al Tribunale di Sorveglianza: mi devi motivare meglio per quali ragioni hai detto no alla richiesta di scarcerazione di Totò Riina, perché esiste il diritto ad una morte dignitosa. Raffaella, tu hai sentito comunque il difensore, esatto, di l'avvocato Cianferone. Sì, sentiamolo. È un paese indegno, basta, cioè non c'è altro da dire. Non è compatibile, ma è evidente che signor Riina non è più compatibile. C'è un problema nazionale di persone oltre gli 80 anni in quelle condizioni. La difesa Riina è riuscita, per una serie di concomitanze, a tirar fuori il problema molto più che in precedenza. Ed è imbarazzante, cioè quello che la relazione dice che non è più compatibile. Milano dice: ma io non ci voglio entrare, e poi l'articolo 70 è solo sulla capacità di intendere e di volere. Sì. Noi cerchiamo una lettura evoluta dell'articolo 70 anche in chiave europea. Riina, non so se ci arriverà. Il merito del caso Riina è di avere sollevato le contraddizioni, cioè il re è nudo, lo Stato qui si dimostra impreparato. Questa relazione rafforza la vostra anche richiesta? Assolutamente, diciamo. Sì, ho dimostrato che abbiamo ragione. Quindi insomma l'avvocato insiste in questo senso, si deve aspettare allora la sentenza, dicevi, la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Del Tribunale, no? Di Sorveglianza di Bologna, esatto. Bene. Esatto. Grazie Raffaella Calandra. Ciao, ciao Raffaella. Roberta, grazie. E qui ci lasciamo brevemente anche noi, sapete che poi ritorno alle 22 per ricordarvi i fatti principali.